Pubblicato sulla rivista di poesia contemporanea Contemporaneamente Versi, diretto editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia della poetessa Simona Fioriti, dal titolo Andante. Pensano che le distorte pentatoniche dei loro strumenti di banalità e pressapochismo suonino sinfonia, vado a stornare lontano dall'armonia.